You've got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti. Che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questa nuova puntata di Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che ha come ospiti i nuovi italiani, gli italiani di origine straniera. Parliamo ogni giorno di un piatto per parlare dell'Italia che sta cambiando, perché a tavola, come nella società e nella vita, i gusti cambiano, e parliamo di cucine e ricette per raccontare i nuovi italiani, magari nati all'estero ma da decenni in Italia, oppure nati in Italia da genitori stranieri. Stasera a Radio 24 è venuto Khalid Ciauchi, parlamentare del PD, al quale do una buonasera. Buonasera. Grazie per essere con noi questa sera. Lei è arrivato nei primi anni 90 in Italia, molto piccolo, poi ce lo racconterà. È un italiano di origine marocchina che si sta facendo onore nella politica italiana all'interno del centro-sinistra del PD. Su Twitter si definisce giornalista, figlio di questa nuova Italia, responsabile dei nuovi italiani PD, temporaneamente deputato. Il 22 dicembre è entrato per protesta nel centro di prima accoglienza di Lampedusa. Ciauchi, le chiediamo subito come si mangiava a Lampedusa, qual è il piatto che ci porta stasera? Si mangiava, insomma, non cose di, ovviamente, come potete immaginare, di altissimo profilo, però era tutto molto buono, ed è il piatto che vorrei portare, appunto, quello delle patate al forno e pollo arrosto. Insomma, questo era uno dei piatti che abbiamo mangiato spesso in quei giorni. Io avevo visitato quel centro più di una volta, ma dopo la tragedia del 3 ottobre, che tutti abbiamo visto, tutto il mondo ha visto e ha pianto, pensavo che fosse la volta buona, doveva essere la volta buona per cambiare radicalmente modo anche di gestire questi luoghi, soprattutto di garantire un'accoglienza dignitosa a queste persone. Il 3 ottobre 2013, lo ricordiamo, una barca è naufragata al largo di Lampedusa, ci sono stati 366 morti accertati e 20 dispersi, no? Sì. Molti di questi, quando lei è entrato a dicembre, quindi parecchio tempo dopo, si trovavano ancora nel centro di Lampedusa. Sì, questa è la cosa che più mi ha scandalizzato, devo dire, cioè il fatto di ritrovare persone che avevo condiviso con loro anche i momenti dolorosi della cerimonia anche di saluto ai loro cari che purtroppo erano morti. Mi sono ritrovati lì in attesa dopo mesi in un centro che non aveva le condizioni né igienico-sanitarie adeguate, nemmeno una, quella che è l'assistenza che in genere deve essere garantita anche alle vittime della tratta o a chi ha subito un trauma del genere, come quello del rischio appunto di morire in un naufragio come quello che abbiamo visto. E questo, insomma, non me la sono sentita di girarmi e tornare a casa per l'ennesima volta, magari cavarmela con qualche comunicato, con qualche denuncia pubblica, e ho deciso di rimanere con loro finché le istituzioni finalmente avrebbero fatto quello che devono fare per legge. Ci racconta la sua giornata tipo a Lampedusa? Davvero sono giornate difficili da far passare, giornate lunghissime, perché non ci sono spazi né attività parallele. Cioè ci si alza e non c'è niente da fare. Sì, non è un'esagerazione dire che è peggio del carcere, perché non c'è nessun tipo di attività, non c'è la televisione, non c'è nemmeno la mensa. Questa è anche una delle cose. Dove mangiavate? Ognuno mangiava o tornava nel suo letto, oppure se c'è bel tempo nel cortile, seduti così sul marciapiede. Quindi queste patate al forno e questo pollo di cui ci parlava le avete mangiate così sulle vostre brande? Sì, e molte volte poi diventavano dei panini. Correre mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino por no llevar papel. Siamo diventate vecchie, cosa dobbiamo fare? Resti tutto il giorno così, diventi vecchia. Ci svegliamo alla mattina. Chi gli piace prendere colazione va a prendere colazione. Fumiamo sigarette come pazzi. Che facciamo l'altro? Viene il pranzo, andiamo tutte come pecore. Mangiamo. E dopo viene ora 6, devi andare ancora come pecore. Prendiamo da mangiare e riprendiamo le nostre stanze. Fino alle 12. Dopo ci chiudono come i cani. Qua è peggio di casa, poi avrei manco un specchio. Niente, che facciamo? Io metterò a scrivere, che devo fare? Ascolto la musica, scrivo. Quello che faccio il giorno, a che ora sveglio, a che ora mangio, poi con telefono da mattina fino a sera parlo con i miei familiari. C'è tutta pazzesca. Por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano. Non fa onore quella che è la storia di quei cittadini, gli abitanti di Lampedusa e la loro sindaca, che invece ancora oggi continuano a dare gesti di solidarietà. E sempre parlando di cibo, tra l'altro, visto che eravamo a ridosso del Natale, molti venivano fuori dalle grate, ci davano i pandori, i panettoni, i dolci, quindi c'era questa comunque... Molti lampedusani, quindi. Sì, questa voglia di farsi sentire vicini e questo è uno dei modi che, insomma, con cui esprimevano questa vicinanza. Ho letto che in piena notte è stato svegliato dalle urla di una ragazza che correva in cortile, così? Sì. Succedono casi simili. Una ragazza, Fanus, che tra l'altro è ancora lì, è una delle superstiti del 3 ottobre, di origine eritrea, che insomma è arrivata a Lampedusa davvero dopo, insomma, un viaggio interminabile, che è passato dall'Eritrea per il Sudan e poi per la Libia, dove purtroppo ancora oggi sappiamo di veri e propri lager di carcerieri che, insomma, separano le donne dagli uomini, e lei è stata vittima purtroppo di diversi abusi, e soprattutto ha perso le sue amiche durante il naufragio del 3 ottobre, e per lei stare a Lampedusa è una tortura psicologica continua. Negli stessi giorni c'è stato poi il caso dei migranti al ponte Galeria di Roma, che si sono cuciti la bocca per le condizioni in cui erano costretti a vivere. Alcuni di loro hanno parlato di interessi economici, secondo loro, insomma, sono trattenuti così a lungo perché prendono queste cooperative che gestiscono i CIE e prendono molti soldi per ciascun migrante. Secondo lei c'è un interesse economico forte, importante? Beh, assolutamente sì, l'ho detto senza mezzi termini, tra l'altro, anche se diverse di queste realtà vengono ascritte alla mia parte politica, ma io dico sarebbe ancora peggio, insomma, non giustifica e non può giustificare nemmeno il nostro silenzio. Io credo che purtroppo c'è un circuito vizioso che, ahimè, tiene insieme logiche che in questi anni sono state logiche anche politiche di una chiusura totale nei confronti dell'immigrazione, di una generalizzazione che ha associato la parola immigrato a clandestino, criminale, senza più nemmeno fare distinzioni, e d'altra parte però un mondo della cooperazione, che ovviamente non dobbiamo generalizzare, però che anche esso deve fare oggi molta autocritica. Insomma, è chiaro che c'è un mondo del sociale, di chi lavora oggi in questi centri, che deve ovviamente sopravvivere, ma non può farlo sulla pelle delle persone che sono lì dentro, e soprattutto ha la responsabilità di denunciare quando ci sono dei soprusi, degli abusi in questi centri. Invece purtroppo molte volte questo silenzio rischia di essere un silenzio complice, e io ho fatto diverse interrogazioni su anche il fatto dei diritti umani, ma anche purtroppo di casi di violenze contro queste persone da parte anche di alcune forze dell'ordine che volevano obbligarle a farsi identificare, e questo però è avvenuto nel silenzio totale delle anche di alcune ONG e di alcune cooperative che lavorano lì dentro e che invece avrebbero dovuto denunciare per prime questi fatti. Quindi io vedo c'è un circuito molto pericoloso nell'interesse di queste cooperative, di queste realtà, fare chiarezza, essere trasparenti e chiedere tutti insieme che le condizioni di questi centri diventino più vivibili, e garantendo ovviamente il lavoro di queste associazioni cooperative, ma purtroppo insomma non posso dire che sono tutti oggi da mettere nella stessa posizione. Pare che hanno delle responsabilità e spero che ci sia anche un'inchiesta. Noi abbiamo chiesto anche una commissione d'inchiesta per capire chi, come tra queste cooperative hanno anche in qualche modo legittimato quello che abbiamo visto a Lampedusa, ovviamente guardando le responsabilità più in alto, ma anche loro devono rispondere. Della grande Babilon, me dice nel clandestino, por no llevar papel, pa una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. You gotta give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh a little. Si specula sui migranti il business milionario se contiamo che nel 2013 in Italia sono arrivati oltre 40.000 profughi. I contributi a disposizione dell'Italia sono stati oltre 1.800.000 euro al giorno. Per ogni migrante si spende dai 30 ai 50 euro al giorno. I CE nella nostra penisola sono 27, quasi tutti riconducibili a Lega Coop. Facendo un salto nel passato, l'amministratore delegato di Lampedusa Accoglienza, Cono Galipò, fu rinviato a giudizio dalla Procura di Patti per il reato di truffa aggravata continuata, in qualità di rappresentante legale di Sisifo nella gestione delle sue strutture per l'accoglienza di immigrati a Sant'Angelo di Brolo, in provincia di Messina. Secondo l'accusa, infatti, alcuni migranti erano stati trattenuti all'interno di una di queste strutture per un tempo molto più lungo del necessario, ovvero sino a 300 giorni, anche a fronte dell'ottenimento del permesso di soggiorno, con lo scopo di fare incassare alla società una somma superiore a quella prevista. Addirittura si parlerebbe di... Siamo di nuovo in onda, indovina chi viene a cena. Abbiamo come ospite questa sera il deputato del PD, l'onorevole Ciauchi, di origine marocchina, che si è rinchiuso volontariamente nel CIE di Lampedusa prima di Natale, 4 giorni, riuscendo in questa maniera, con questa protesta inusuale, a far sì che le persone che erano lì rinchiuse venissero prese in considerazione la loro richiesta e venissero fatte uscire. Quindi c'è un interesse anche economico, e io credo che invece è nell'interesse oggi innanzitutto del migrante, del profugo, del rifugiato, del minore, essere in qualche modo incentivato poi a diventare autonomo nella società, quindi meno sta in questi centri meglio è per tutti, perché vuol dire che avrà in qualche modo la patente per poi integrarsi nella società, e quindi come fanno in altri paesi europei, ma insomma, meno strutture intermedie, meno strutture che fanno accoglienza eccetera, e più una struttura di mediazione verso la formazione al lavoro, verso l'autonomia sempre maggiore di queste persone. Qui invece abbiamo una logica che purtroppo molte volte fa sì che queste organizzazioni per sopravvivere trattengono persone più a tempo, e questo è dannoso soprattutto per quelli che devono essere al centro di questi servizi, che sono i profughi e i rifugiati. Ha pestato i piedi a qualcuno? Qualcuno le ha detto sia un attimo tranquillo, non è il caso di toccare degli interessi? Beh, insomma, sì, arrivano parecchie mail, arrivano parecchie anche di appunto vari referenti. Io ovviamente non posso dire che sono tutti solo vicini al PD, ci sono anche in realtà vicine anche alla Chiesa, come in realtà vicine ad altre realtà anche più lontane dalla mia, Io dico semplicemente che noi, questa è l'occasione giusta per anche fare autocritica rispetto a un modo anche di concepire la cooperazione, di concepire l'aiuto, la solidarietà, che ovviamente è molto, io parto da me, dalla sinistra, da come la sinistra nel passato ha fatto, in cui purtroppo molte volte insomma c'è una sorta di razzismo all'incontrario, cioè c'è il fatto di volere a tutti i costi e di pensarsi a tutti i costi salvatori del mondo, dei paesi lontani, delle varie comunità, quando in verità insomma quelle persone chiedono semplicemente di avere pari dignità, di essere riconosciute per quello che sono. Tra queste persone ci sono anche molti minori, no? Si parla poco, ad esempio, delle case famiglia in Sicilia, ma anche altrove, che accolgono questi minori e dalle quali questi minori molto spesso scappano. C'è anche da questo punto di vista un suo impegno? Sì. Noi La prima cosa che ho visto a Lampedusa è che per fortuna i minori erano già stati trasferiti. Il problema è dove vengono trasferiti, e soprattutto abbiamo visto anche casi di cronaca sia a Roma e non solo, dove purtroppo anche su quello si fa molta, molta speculazione. Bisogna stare attenti perché insomma noi di fatto rischiamo di insomma non solo di creare un danno a questi ragazzi e queste ragazze, ma anche di creare delle condizioni che per il futuro rischiano davvero di compromettere anche la coesione sociale. Insomma, molti dei minori, io ho visto anche Torino, altre realtà del nord, poi purtroppo diventano anche vittime della malavita, vengono utilizzati nello spaccio, mentre invece sono responsabilità dello Stato fino ai 18 anni e vanno semmai guidati verso la scuola, verso la formazione, e su questo non si fa ancora parecchio, anche se ovviamente dipende dai comuni, e ci sono comuni virtuosi, comuni invece che tendono molto di più a diversificare appalti con altre logiche, non verificare davvero la qualità delle varie associazioni di chi oggi si occupa di questo. Porno llevar papel, perdido nel corazón della grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana illegal. Si aspettava di più dal ministro Chieng? Ma sì, io sono abituato a dire quello che penso, anche se Non sono per niente uno che cerca rogne o cerca polemiche, però io credo che noi abbiamo sostenuto con forza la sua nomina a ministro, è stata una bella notizia per tutti. Io ancora oggi continuo a difenderla assolutamente rispetto alle aggressioni vergognose che ancora oggi subisce da parte di alcuni gruppi e movimenti. Però penso che anche insomma la sua nomina sia un'opportunità per l'Italia per dimostrare che oggi le persone di origine straniera possono dare qualcosa in più e non solo essere viste come una novità, ecco. Però deve essere un po' più coraggiosa e più concreta. L'integrazione è una battaglia importante ed è una sfida per il nostro paese. O si riesce a costruire una prospettiva di convivenza multiculturale nel rispetto della Costituzione, delle leggi, eccetera, o se no rischiamo di fallire come hanno fallito altri paesi europei. E temo che per l'Italia sarebbe molto peggio, perché il nostro paese per anni non è stato preparato purtroppo a questo cambiamento. Oggi dobbiamo recuperare questo ritardo, però servono politiche concrete di integrazione. Pensiamo che ci siano oggi le condizioni per essere molto più concreti e far capire a tutti, anche i più scettici, quelli che l'attaccano, che il suo ruolo è decisivo per il futuro dell'Italia, perché con 5 milioni di immigrati, 1 milione di figli di immigrati, non stiamo parlando di una piccola realtà, ma di un corpo importante per il futuro di questo paese. Cambiando invece argomento, avrà seguito anche lei quello che è avvenuto a Prato, no? Dove hanno perso la vita 7 cittadini cinesi lavoratori, una fabbrica dormitorio. Ecco, anche per quella comunità c'è un discorso forse diverso da fare, ma un discorso importante da fare. Qual è il problema di Prato, secondo lei? Beh, il problema di Prato, da una parte, è che noi dobbiamo riconoscere che ovviamente la nostra economia è cambiata, e quindi per tanti anni quella presenza ha fatto comodo anche tanti grandi marchi della moda, ha fatto comodo a un'economia locale che ha visto in questa presenza una possibilità di trasformare anche i propri capannoni che stavano chiudendo e quindi trovare anche ottimi compratori, e questo per un certo periodo è andato bene. Oggi ovviamente c'è un problema di legalità, e serve fare un lavoro di prevenzione e quindi di cittadinanza. Io non dico integrazione, cittadinanza significa che è doveroso per uno Stato, insomma, quello di far rispettare le leggi e soprattutto creare le condizioni affinché tutte le persone siano a conoscenza di quelle che sono le regole e di quello che appunto sono le condizioni di lavoro e di vita in Italia. Questo è un problema di illegalità diffusa. Io ho vissuto tanti anni anche in alcune zone d'Italia, nel sud in particolare, devo dire che non riguarda solo i cinesi, ahimè, il tema dell'illegalità e anche soprattutto nel mondo del lavoro. Sulla comunità cinese in particolare, chiaro che ho fatto un lavoro molto più mirato. Oggi abbiamo una realtà di seconde generazioni molto interessante anche da parte cinese, che è disponibile, anche facendo anche un lavoro interno alle proprie comunità, a dare una mano, e molte volte noi non valorizziamo queste presenze. Oggi le seconde generazioni, soprattutto nel caso della comunità cinese per esempio, possono essere fondamentali per invertire la tendenza e cercare di investire su quelle realtà che sono dentro la comunità cinese, che vogliono oggi lavorare nell'ambito della legalità, come è successo in altri paesi europei dove c'è una comunità cinese molto forte ma pienamente inserita nell'rispetto delle regole dei paesi dove vivono. Correre mi destino para burlar la ley, perdido nel corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino. Onorevole, prima di lasciarla, qualcosa su di lei. Lei è arrivato da Casablanca, dal Marocco, che aveva 8-9 anni, giusto? Ci racconta qualcosa della sua esperienza di italiano di seconda generazione? Ma sì, io diciamo sono stato uno dei primi, insomma, i primi ricongiungimenti familiari, e siamo arrivati qui insieme a mia madre e ai miei due fratelli dal Marocco. Avevo fatto i primi 3 anni di scuola elementare e poi sono stato catapultato in una città bellissima che è Parma, in provincia di Parma, e insomma, dove davvero sono stato accolto e coccolato da una comunità locale molto curiosa. Nei primi anni 90 e c'era questa genuinità, c'era comunque questa curiosità verso chi veniva da lontano, si facevano anche domande magari stupide, se in Marocco c'era l'acqua, la luce, se solo i cammelli. E io per ripicca, quando tornavo in vacanza, mi mandavo le cartoline con i palazzi di Casablanca per dimostrare che insomma non eravamo così incivili. E però è stato un percorso. Cosa faceva suo padre a Parma in quegli anni? Mio padre è tappezziere e mia madre è un insegnante di lingua araba in Marocco. E poi la cosa che oggi insomma, dopo tanti anni, i miei genitori però sono stati costretti a emigrare, e proprio pochi giorni dopo che io sono stato eletto hanno dovuto chiudere un'attività che avevano aperto a Parma, a Reggio Emilia, perché nel frattempo siamo trasferiti a Reggio Emilia, e oggi vivono in Belgio. Quindi caso della sorte, oggi vivono a Charleroi, quella cittadina belga che ha visto tanti italiani in passato arrivare, e oggi loro da nuovi italiani hanno dovuto chiudere la loro attività, purtroppo, e questa è una cosa che mi fa molto male, e decide insomma di provare da un'altra parte, perché insomma diciamo il destino purtroppo che sta toccando molti giovani e meno giovani, anche italiani. E purtroppo questa è una delle realtà che più mi preoccupano. Io quando vado a trovarli nei voli low cost, molte volte incontro tante mamme, tanti padri italiani che vanno a trovare i loro figli, e tornando magari incontro tanti giovani che tornano a casa. Ha mai vissuto sulla sua pelle delle incomprensioni per motivi di razzismo, di pregiudizio? Sì, sono state storie che purtroppo sono toccate a tanti. C'è un bel libro che si chiama Imbarazzismi, che invito. Sì, lo conosciamo, abbiamo avuto anche ospite l'autore, sì. E quindi diciamo il mio caso è stato molto di storie di questo tipo. Insomma, mi ricordo a scuola quando spariva qualsiasi cosa, io ero il primo indicato come l'unico che poteva rubare qualcosa, quando invece insomma. In quanto straniero, e ricordo anche però dopo l'11 settembre, io sono di religione musulmana e ho anche impegnato molto nell'associazionismo e nelle file dei giovani musulmani, insomma, per cercare proprio di avviare un dialogo interreligioso, spiegare insomma quello che è una mia dimensione di fede che non aveva nulla a che fare con l'estremismo, il terrorismo. Però dopo l'11 settembre, per esempio, sono stati anni molto difficili, ancora oggi purtroppo insomma ricevo quotidianamente insulti, offese, perché insomma si pensa che insomma una persona di religione diversa deve per forza, o deve essere in qualche modo non può essere un italiano vero, insomma questo è un po' il punto culturale su cui dobbiamo lavorare molto, insomma molti ancora ragionano sul fatto che avendo un nome diverso, una cultura diversa di origine, non possiamo dirci italiani a tutto per tutto. Io invece insomma penso che può essere un valore aggiunto, e molti dei nuovi italiani, io in primis, amiamo l'Italia, ci sentiamo parte di questo paese e forse siamo a volte anche più patriottici di tanti italiani, diciamo, di prima generazione. Grazie di averci raccontato che cosa ha mangiato a Lampedusa, come si è vissuto quei 4 giorni a Lampedusa e qualcosa di più, insomma, su di lei e sul suo impegno in politica. Io ringrazio Khalid Ciauchi, onorevole del PD, che è stato con noi questa sera. Buona serata, grazie. Buonasera, grazie a voi. La nostra puntata termina qui. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con Indovina chi viene a cena, che la prossima settimana si occuperà di Prato. Andremo proprio a Prato a capire cosa è accaduto a pochi mesi dal rogo della fabbrica dormitorio, dove, lo ricorderete, hanno perso la vita 7 cittadini cinesi lavoratori in Italia. Io vi do appuntamento a sabato prossimo. Mi trovate anche su Twitter @valfurla e vi ricordo che nella vita, come a tavola, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.